Ops. Ci sei, amico? Quello che ti sto per dire è qualcosa che tengo dentro da troppo tempo. È la storia di un bambino timidino da piccino, più cipucci che bellino, è così così carino, tenerino, porcellino, che si leva al mattino e si leva il comodino, piccolino, con modi normali e senza problemi, senza tanti affari strani, si lava le mani, fa poi le elementari dagli altri colleghi, che sono fieri di stare ai suoi piedi. Facciamo i seri se ritorna veritieri, perché ieri come oggi sono pieno di problemi e non so più darne fuori, ricoperto di furori, ho le bolle dei bollori sulle pelle, ne ho colme le palle, dalle stalle alle stelle, dalle stelle alle stalle, sono solamente balle, sono solamente in panne, le mie canne sono lame, la mia rabbia sente fame, che abbia sete di lottare sembra più che normale, anormale invece il mio colore come pece male, sono nero dentro fuori spento, mi tormento non commento, è fomento un sentimento trattenuto, mi controllo, io non crollo, io non mollo, io mi reggo sul mio collo, ma vedere certe scene mi fa scendere il morale, così in mente solo questo scene male, non so cosa pensare, cosa fare, come agire, come dire che è morire e vederti con altri, perché sono geloso se non guardi me, sono geloso se non stai con me, sono geloso se gli aspetto te, divento geloso se non vieni a me, sono geloso se non guardi me, sono geloso se non stai con me, sono geloso se gli aspetto te, divento geloso se non vieni a me, perché è uno stato pietoso, sono furioso, tanto curioso, vediamo che fa, ma quasi ci sta, va. Sono questa con quello là, vedo sfalzato, sono alterato, mi toglie il fiato, agisco malato, stare meglio bendato, alle gambe legato, ai polsi fasciato prima di fare reato, tutto quello che intorno sembra adesso cambiato, quasi come stregato, forse sono incazzato, non mi sento chiamato, sta con lui è felice, la vocina mi dice, poi si spegne la luce, serve la cucitrice o qualcosa che cuce, mi sono sbucciato e viscida come le bucce, succede e sfugge al mio controllo, è la mia gelosia che mi mette in mollo, sono geloso se non guardi me, sono geloso se non stai con me, sono geloso se gli aspetto te, divento geloso se non vieni a me, perché sono geloso se non guardi me, sono geloso se non stai con me, sono geloso se gli aspetto te, divento geloso se non vieni a me, perché che sia la gelosia, l'ipocrisia tipo la mia, che mi casi poca sia, ipoplasia così pop, la mia via, prendila con ironia, ipocondria, partirà con dia, ironologia, tachessia, senza mezzi termini, prima che il bitermini, state tutti fermi, orecchi e problemi interni, è difficile vederli, perché non vuoi mostrarli, è facile affrontarli, ma tu non vuoi sfogarti, non vuoi mostrarti debole e sensibile, ma nemmeno freddo, sibile, impossibile, impossibile a descrivere, sensazione simile, pronto all'atto crimine, perché tirato al limite, azione inverosimile, copione invivibile, ma a volte inevitabile, non sono invulnerabile, anche questa stabile non è stabile, la stabile è la stabile, inca sempre inarrestabile, mente stabile, stabilmente rete stabile, detergente insufficiente, sono indomabile, stabili denti, ma l'offendente ritengo inviolabile, ciò che si te compreso te, inviolabile per restare in me, cerco di pensare ad altro e non smettere, cerco di pensare a mare, quando voglio rispaccare, prendere il tuo culo e farti andare a camminare in culo, non volevo te lo giuro, è lui che fa me scuro, fa me sudo, su dove devo stare, per placarmi ho confusione, confusione sto, yeah, per placare questa placca, che la gelosia che spacca, un ideologia che attacca, e la mia fobia mi spacca, entri nella sacca, mandi tutti in vacca, scatta il nervo all'occhio, penso fermocchio, scoppia schiocco da rintocco, scotto troppo, torno sotto con te, parlando del bambocchio che era un tempo. Sono geloso se non guardi me, sono geloso se non stai con me, sono geloso se gli aspetto te, divento geloso se non vieni a me, perché sono geloso se non guardi me, sono geloso se non stai con me, sono geloso se gli aspetto te, divento geloso se non vieni a me, perché sono geloso. Robe fuori di testa, robe da non crederci. Ho perso troppo tempo per sta roba. E il CD? 2006-2013, che ne dici? Troppo tempo, amici.